Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Obbediente mi calai nel pozzetto angusto. Mi misi in ginocchio e iniziai a ruotare il volantino per chiudere la valvola, anche se con estrema difficoltà. Dopo poco udii dall'esterno il mio collega che gridava in piemontese: «Muoviti Giovanni, muoviti che arriva l'acqua, muoviti!» Ciao, sono Gianni Lenta, ho 45 anni, vivo a Riva presso Chieri, provincia di Torino, sono sposato e ho un figlio fresco maggiorenne. Una settimana fa mi ha suonato il citofono una persona. Ho guardato dallo spioncino, non mi sembrava una persona pericolosa, anche se non saprei distinguere sinceramente una persona pericolosa da una che non lo è, a meno che non abbia una mazza da baseball in mano. Gli ho aperto, era l'uomo del folletto. Dunque, innanzitutto mi sono stupito del fatto che esista ancora l'uomo del folletto, però poi, visto che tutti ce l'hanno a casa propria, quell'aspirapolvere lì, e mi pare che venga venduto solo in quel modo, porta a porta, evidentemente esiste ancora. Lui è entrato, è stato abbastanza cortese, si è guardato un po' in giro e poi mi ha detto: chi si occupa delle pulizie? Ho detto: guardi, non sono io. Posso fare una cosa? Ha preso un foglietto bianco e l'ha passato per terra così. Poi me l'ha porto e mi ha detto: vede? C'erano chiaramente i segni delle quattro dita strisciate sul pavimento. E lì, a parte che ti senti in colpa, perché dici: senta, lei ha ragione, però il pavimento è sporco, il cane che va al parco, le scarpe, no, comunque non me ne occupo io. Se vuole le faccio vedere la dimostrazione. E lì ho detto che avevo fretta, che era vero. Ed è sempre vero quando uno ha fretta. Quando mai vi sentite avere 5 minuti per voi? Guarda, scusa, ho fretta, ma anche mica solo con l'uomo del folletto, pure con tua madre. E lui se n'è andato. E appunto, mentre lo salutavo con la cortesia che mi è propria, ho fatto due riflessioni. La prima era appunto: esiste ancora l'uomo del folletto? E la seconda è stata: è vero, io gli ho aperto la porta e poteva essere chiunque, ma anche lui che bussa ad ogni porta potrebbe trovarsi davanti chiunque. E alla fine ogni mestiere forse nasconde una parte di pericolo che spesso non è così esposta come sembrano solo i mestieri pericolosi. 349-238-6666, sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi parliamo di questo argomento qui, di come un mestiere che potrebbe non sembrare pericoloso, in fondo lo è, del mestiere più che pericoloso che avete fatto nella vostra vita, anche se all'apparenza non lo era. Lo facciamo grazie alla storia di Gianni, che è una storia, vi leggo il titolo, alcuni di voi mandano racconto con un titolo. E il titolo della storia di Gianni era Annegare in mezzo a una strada, che sembra parossistica come definizione e non lo è, a breve lo sentirete. Stefania però, Stefania è una grafica. Come può essere pericoloso il mestiere di un grafico? Così: lavoro psicologico durissimo. Avevo la vedova sempre a fianco a me che guardava ogni mio movimento di mouse e si aspettava grandi cose. Ho dovuto creare un necrologio che graficamente esprimesse tutta la personalità e la grandiosità del defunto. Ho avuto paura per giorni delle possibili ritorsioni da parte del caro estinto verso il mio operato. Mai più grafiche per i morti. 349-238-6666. Giulio. Accompagnare a casa con la mia auto dopo una copiosa nevicata tre alunni della scuola elementare perché lo scuolabus non ce la faceva salire sulle colline. Nonostante le catene, l'auto slittava e per percorrere circa 4 km impiegai quasi un'ora. I bambini si divertivano, io sudavo freddo per la responsabilità che mi ero preso. Il grazie dei genitori mi rinfrancò e mi incoraggiò nel rifare la stessa strada, ma stavolta in discesa. 349-238-6666. Qualunque sia il mestiere più pericoloso che avete fatto nella vostra vita, qualcuno mi scrive subito: ho fatto il casco blu in Somalia, e quello effettivamente lo è così, anche solo leggendo queste tre parole del messaggio. Ma anche se non sembrava pericoloso, in fondo lo era, anche se non si trattava di annegare in mezzo a una strada. Era il luglio del 1986 e io avevo appena sostenuto l'esame di maturità. Ero quindi riuscito a prendere il mio bel diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione elettrotecnica. Come tutti i diciottenni avrei desiderato, dopo le fatiche dell'ultimo anno, partire con gli amici per una vacanza, prima di cercare lavoro o iscrivermi all'università. Ma purtroppo così non avvenne. Qualche mese prima mio padre, prossimo alla pensione, si era ammalato ed era stato ricoverato all'ospedale di Cuneo, dove fu costretto a restare per mesi. Periodo nel quale mia madre dovette fare continuamente la spola fra Bra e Cuneo in treno, senza poter dedicare molto tempo a mia sorella e a me. Fu così che iniziai dunque a cercare un lavoro. Ah, ero abbastanza timido e impacciato, diciamo. non ero molto sveglio, anche se avevo finito le superiori. In quel momento mi aspettavo poco, perché avevo mio papà che stava male, mia mamma era impegnata a seguirlo, io appena uscito da scuola, pur essendo diplomato perito elettrotecnico, primo lavoro che trovai era l'idraulico e feci l'idraulico, almeno prima di partire militare, poiché aspettavo di partire militare. Un pomeriggio di quel caldo luglio feci un salto nel bar che si trovava a pochi passi da casa mia e, acquistando un ghiacciolo, ne approfittai per chiedere alla barista se sapesse di qualcuno che stesse cercando un neodiplomato. Mi rispose che il suo ragazzo probabilmente era interessato, nel caso l'avrebbe fatto passare a casa mia. Così accadde. E il giorno seguente ebbe inizio il mio primo lavoro. Dovetti recarmi a Cavalmaggiore come apprendista idraulico tubista. Il primo giorno di lavoro fui subito affiancato ad un collega di vecchio stampo che non aveva alcuna remora nei confronti di un giovane diplomato e che, per farmi entrare il lavoro, non si faceva scrupoli nel tirarmi dietro attrezzi del mestiere come la mazzetta da muratore o chiavi inglesi varie. Iniziò così il mio apprendistato da idraulico, che durò fino a gennaio dell'88, quando partì per il servizio militare, alpino a Cuneo. Tra i vari lavori che la ditta realizzava, il titolare prese anche l'appalto per la posa delle tubazioni del metano in un piccolo paese della zona, Scarnafigi. Il lavoro, preso in collaborazione con una ditta di scavi, non era poi così male. Era inizio autunno e il mio compito mattutino consisteva inizialmente nel tagliare l'asfalto adoperando l'apposita macchina. Poi, mentre il ragazzo si occupava dell'escavatore, preparava lo scavo, io e il mio collega predisponevamo la tubazione. Al pomeriggio quest'ultima veniva posata e in seguito si richiudeva lo scavo. Il lavoro procedeva spedito e i giorni passavano, finché una mattina, durante lo scavo, il ragazzo dell'escavatore, anche lui giovane neodiplomato geometra, per via di una manovra sbagliata, ruppe inavvertitamente la tubazione principale dell'acqua potabile. Nel giro di pochissimo lo scavo si riempì d'acqua. A quel punto il mio collega mi chiamò a gran voce dicendomi di accompagnarlo a chiudere la valvola principale, che si trovava in un pozzetto in fondo alla strada. Raggiungemmo di corsa il pozzetto e, una volta scoperto, il mio collega mi intimò di scendere all'interno e chiudere la valvola. Obbediente, mi calai nel pozzetto angusto, mi misi in ginocchio ed iniziai a ruotare il volantino per chiudere la valvola, anche se con estrema difficoltà. Dopo poco udii dall'esterno il mio collega gridarmi in piemontese: «Bugia Juan, che leva arriva, bugia! Muoviti Giovanni, che l'acqua arriva, muoviti!» L'acqua, che nel frattempo aveva ormai invaso completamente la strada, si stava infatti dirigendo rapidamente verso di noi, visto la pendenza della strada, e nel giro di pochi secondi aveva già iniziato a riempire il pozzetto. Io, preso dalla concitazione e dalla fatica nel chiudere la valvola, non feci caso al fatto che il livello dell'acqua aveva iniziato ad alzarsi. E intanto il genio del ragazzo dell'escavatore, per evitare che il pozzetto si riempisse oltremodo, ebbe la malsana idea di utilizzare il pesantissimo chiusino, il tappo in ghisa, per tappare il tutto. Mi ritrovai nel buio più totale, con l'acqua che ormai mi era arrivata sotto il mento. Ma continuai imperterrito a girare il volantino, mentre il mio collega all'esterno fu preso dal panico per il timore di non riuscire più ad aprire il pozzetto. Infatti, i detriti trasportati dall'acqua avevano ostruito il foro in cui infilare il piccone per sollevare il chiusino. Ricordando adesso le cose, mi viene da sorridere, perché viene da sorridere. Poi, riflettendo adesso, avendo anch'io un'azienda, sulla sicurezza dei dipendenti, è incredibile che una volta si potesse lavorare in questi modi e rischiare, non dico la vita, ma magari andarci vicino per delle banalità, delle assurdità. Non so come e cosa fecero per aprirlo. Ricordo solo che a un certo punto vidi comparire sopra di me la luce e, ormai sommerso, alzai le braccia e mi sentii afferrare e tirare fuori dal pozzetto. Oggi, quando racconto il fatto, mi viene da sorridere. Tutti fanno smorfie quando dico che ho rischiato di affogare in mezzo ad una strada asfaltata in un paesino senza mare né lago. Ora sono un microimprenditore nel campo dell'energia elettrica. Spendo migliaia di euro all'anno in attrezzature per la sicurezza dei miei dipendenti, che io però preferisco chiamare ragazzi. Here in Northeast Ohio, back in 1803, well, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace, yeah, here along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, Prima di leggere la storia di Gianni, io ho letto il titolo che lui aveva dato e, come vi dicevo, è esattamente come rischiai ad annegare in mezzo a una strada. E l'ho letto d'un fiato per capire come possa succedere di annegare in mezzo a una strada. E quando ho finito la sua storia, il titolo mi è parso meno paradossale di quanto sembrasse. Questa storia mi ha ricordato una serie di altre avventure assurde che spesso diventano leggende metropolitane e poi non sai mai quando inizi la verità e quando finisca. Se si trasformasse in una leggenda metropolitana, la storia di Gianni probabilmente racconterebbe che sul guardrail di una strada di un piccolo paese in Piemonte, Scarnafigi, c'è una scritta che dice: ricordarsi sempre di chiudere la valvola prima di iniziare lo scavo. Così, in modo che il comune si possa sollevare da ogni responsabilità proveniente da un incidente. C'è una storia, ce ne sono diverse, ce n'è una in particolar modo che mi è rimasta impressa, che viene dagli Stati Uniti, che non ha a che fare con strade, scavatori o annegamenti, ma che sembra paradossale tanto quanto quella di Gianni. Racconta di un ex ufficiale di marina in pensione che decide di comprarsi un grande camper per girare il paese. Questa del camper è una pratica piuttosto comune negli Stati Uniti, dove le persone sono, non lo so, immagino, forse meno legate alla terra in cui vivono per anni, e molti di loro, una volta in pensione, mollano tutto e si trasferiscono in zone più accoglienti, di solito più calde, di solito al sud, di solito in Florida. Ed è proprio lì, in Florida, che prende forma questa storia, perché l'ex ufficiale di marina ha venduto la sua casa e si è comprato non un camper normale, ma uno di quei caravan che di solito usano le persone che sono nomadi per bisogno o per formazione. Sapete, di quelli che ci attacchi dietro l'automobile e la traini per essere più comodo e muoverti poi una volta che sei fermo e stanziale. Insomma, questo signore, per quanto anziano, ha passato la vita tra strumenti nautici di posizionamento, quindi conosce a memoria un GPS, sarebbe pronto a fare un punto nave a occhio oppure dare le coordinate del punto in cui si trova giusto con un orologio in mano e guardando la posizione del sole nel cielo. Solo che non ha mai guidato un camper e soprattutto non sa che cos'è il cruise control. Il cruise control è un sistema elettronico che permette la regolazione automatica della velocità di un mezzo. Una macchina, un furgone, un camper. Il guidatore in pratica seleziona la velocità desiderata e quella viene mantenuta fino a che il guidatore non tocca il freno o l'acceleratore e il cruise control si disinnesca. È comodo perché ti permette di piegare le gambe, ad esempio, o di tenerle libere e usare solo le mani che rimangono sul volante e gestisci la direzione del mezzo. Ovviamente lo si usa su tragitti lunghi, magari monotoni e comunque molto ampi. L'ex ufficiale di marina però non lo sa. E una splendida mattina di inizio estate, in cui parte con il suo camper fiammante, dopo un paio d'ore che sta guidando, sente il bisogno di bersi un caffè. Schiaccia il pulsante che innesca il cruise control, si alza e va nel retro a prepararsi il caffè. Il camper si va a schiantare dopo pochi secondi, ovviamente. L'ex ufficiale non so come sopravvive e quando si riprende fa causa all'azienda che produce il camper. E da allora tutte le case che fabbricano quel sistema di controllo sono obbligate a inserire una scritta sotto il tasto del cruise control che dice: attenzione, il cruise control non è un pilota automatico. Life is a greenhouse gas. Half the police in masks. Pretending to be my friend. Sì, sono proprio molti i mestieri impensabili coi quali si rischia quantomeno di uscirne ammaccati. Ad esempio, Dado mi scrive: nel cabaret, rispetto al teatro, si scherza prendendo in giro il pubblico e là in mezzo puoi trovare il balordo che si offende. A me in 20 anni di cabaret qualche insulto è arrivato, ma a qualche collega è capitato qualche schiaffo e anche minacce col coltello. Questa è la tipica roba, no? Il cabarettista dice: bello a quello in prima fila, bello quel maglione lì, chi te la regala, chi te l'ha stirato, il tuo cane? Ed effettivamente, se non ti viene da ridere, un po' te la puoi prendere. Ringrazio anche Nicola da Parma che mi scrive: sono uno dei 4.000 uomini e donne che va in giro a vendere il folletto. Che dire, non sai mai chi ti aprirà la porta, cosa ti dirà o cosa farà. Se ne vedono di tutti i colori, ma è stimolante, lo posso immaginare, Nicola. Tiziano prima mi raccontava che un suo amico da poco si è messo a farlo ed è stato preso a... cioè è stato con una mazza da baseball, una mazza da baseball. Però vabbè, lì è che proprio ti capita quello che non sta bene, perché cioè inseguire con una mazza da baseball mi sembra un po' esagerato. Ha rischiato invece di annegare in mezzo a una strada asfaltata molti anni fa. Gianni, pronto Gianni? Pronto? Ciao, buongiorno, sì, ciao. Come stai? Ciao, bene, grazie. Dove ti trovi Gianni in questo momento? Sono in ufficio. Perché tu mi ricordi cosa fai? Tu sei un piccolo imprenditore? Sono un elettricista. Ok. Ma l'elettricista, insomma, non si trova mai un elettricista la domenica, si dice, o non si trova mai l'idraulico. Ma quanto lavora un elettricista nell'arco di una giornata? Perché io ho la sensazione che non ci sia mai l'elettricista. Quando lo chiami viene sempre dopo una settimana. Tempo fa sì, adesso abbiamo tempo e corriamo, perché anche per noi diciamo che è più tranquillo. Comunque le nostre 8, 9, 10 ore al giorno le facciamo. No, se tu mi dici Gianni che c'è meno lavoro anche per gli elettricisti, allora ha senso tutto quello che si dice sulla crisi negli ultimi 3 anni. Sì, cioè come tutti i miei colleghi, è un periodaccio per tutti, quindi... Però tu hai cominciato, diciamo, rischiando di annegare in un pozzetto. Poi per piacere, riassumi velocemente. Allora, tu praticamente tagliavi l'asfalto, giusto? Esatto. E poi c'era un tizio con una ruspa. Scavava. Esatto. Ok, perfetto. A un certo punto questo con la ruspa tocca una tubatura. Esatto, e guarda caso era la principale, che era derivata dall'acquedotto, quindi... Benissimo, ma tra l'altro è un danno non da poco, immagino, anche questo, ripararlo, esatto, no? Ok. Esatto. Niente, l'acqua comincia a riempire il buco e a un certo punto a uscire, giusto, a la uscire. Dinamica? Sì, ma in un attimo lo scavo si è riempito, allora dovevamo chiudere quest'acqua, perché sennò allagavamo mezzo paese. E la condotta, tutte le condotte principali hanno chiaramente una valvola di intercettazione all'inizio della condotta. E voi sapevate dov'era sta valvola? Noi sapevamo, sì, perché okay. Certo, mette in preventivo, uno... che okay. può succedere. Corriamo e chiaramente io, che ero il più giovane, ho dovuto infilarmi in questo pozzetto, che era angusto, il volantino era grande, io ricordo che facevo fatica a ruotare questo con le due braccia. E praticamente a un certo punto l'acqua, scivolando lungo la discesa, ha cominciato a riempire anche questo pozzetto. Però di tutta questa storia, la cosa che non capisco è che a un certo punto quello con la ruspa ha tappato il pozzetto in cui tu ti trovavi. Sì, perché anche lui, preso dal panico, perché l'acqua, cioè, era un fiumiciattolo d'acqua che entrava, ha preso questo e l'ha buttato sopra, pizzicando oltretutto il dito dell'altro mio collega, che nel tentativo di fermarlo aveva messo una mano, però il pozzetto era pesante, l'ha schiacciato. Gianni, sei qui a raccontarla, quindi è andato tutto a posto. Sì, infatti. Però, scusami, invece, parliamo del lavoro che fai adesso, che è l'elettricista. Da quanto lo fai l'elettricista, più o meno? Adesso sono quasi 20 anni, più o meno. Senti, e te mai è capitato una roba che per una svista non ci fai caso, ci sono due cavi che escono? Perché sì. quella, diciamo, io non faccio fatica ad attaccare due lampadine, però anche quando stacco tutta la luce per cercare di mettere quelle due vitine che poi collegano al lampadario, ho veramente il panico, perché è una roba che non vedi, cioè la corrente elettrica, no? Non è l'acqua, esatto. Non è il fuoco, esatto. Che non lo sai. Allora, noi lo diciamo, la corrente elettrica non si vede, quando la senti è troppo tardi. Ma ti è mai capitato di rimanere attaccato, perdonami il termine? Sì. A noi succede. Ma oltretutto stiamo molto attenti, perché facciamo anche delle cabine di media tensione con 15.000 volte, 15.000 volte non perdona. Non ne esci. Ma... anche se in realtà la tensione 230, questa qui, che abbiamo noi nelle nostre case, è pericolosa, veramente tanto pericolosa. Quindi... Cioè, ma nel senso che sei rimasto attaccato vuol dire che hai sentito proprio la corrente che ti passava all'interno del corpo e hai avuto un attimo di shock, oppure tipo, ai, così e basta? La senti e speri che vada bene. Purtroppo quando la senti, perché ti è andata bene, perché c'è una frazione del cuore che se... Prendi corrente, tensione, quando c'è il cuore che passa in quella fase lì non c'è più nessuna speranza. E quando la sentiamo è perché non sentiamo i 230 volt, ma ne sentiamo in realtà meno di 50 volt. Ok. Del corpo, eccetera. Senti, tutta che lavoro hai fatto stamattina? Questa mattina ho portato del materiale ai ragazzi in giro e sono andato da un grossista. Ma quindi stai facendo cose grosse, non case, non appartamenti, non privati? Anche appartamenti, adesso facciamo un po' di domotica, diciamo che il futuro è la domotica, quindi... La domotica è quella roba per cui tutto gestito da un computer, detto male? No, sì, diciamo la casa automatica, scenari, entro in casa, si accende le luci, si alzano le tapparelle, si accende la musica, regolo la temperatura, esco di casa, spengo tutto, chiudo tutto con un pulsante solo, non con mille azioni. Gianni, senti, ti ringrazio molto per le chiacchiere e il racconto e in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Mia figlia, terapista occupazionale a domicilio, non sa mai chi si trova di fronte, lo immagino, ma sai che io non so che cos'è il terapista occupazionale. Questa foto io sono sicuro che Gianni se l'è fatta apposta per mandarcela, perché Margherita ha cominciato a dirle: guarda Gianni, abbiamo bisogno che ci mandi una foto, se ce la vuoi in qualsiasi formato, delle vacanze, di casa. E Gianni sulla sua scrivania in ufficio, tra l'altro ha ancora sul giaccone la camicia, quindi, e la camicia, perdonatemi, il giaccone e la sciarpa, quindi probabilmente se l'è fatta tipo, vabbè, stavo uscendo, dico, dai, facciamo sta foto, e si è fatto la foto guardando da un'altra parte, che è sempre un bel mezzo per dire non la sto facendo, sto guardando altrove e intanto faccio la foto. E ha una faccia simpatica, i capelli riccioli, la pelle un po' rosa, di chi ha le gote rosa, perché probabilmente o è entrato o era appena uscito dall'ufficio al freddo, e ha un po' lo sguardo di chi ha preso almeno una volta la 220. Rischio, sostantivo maschile. Eventualità di subire un danno, più incerto di quello implicito in pericolo. Rischio calcolato, strategia consistente nel permettere che la tensione conflittuale aumenti nella convinzione di poter così ridurre l'avversario alla resa. Rischio ambientale, la probabilità che un evento naturale prevedibile determini i danni a oggetti, persone, luoghi. In varie determinazioni del linguaggio economico, commerciale e contabile, l'eventualità di una perdita. Etimo, variante di risico, dal greco bizantino rizikò, dall'arabo rizco. Questo non so come si legge, aspetta. Dall'arabo rizk, data secolo XII. Grazie Alessandra De Luca per la splendida voce e il modo in cui ci legge le definizioni, che trovate ogni giorno anche sul profilo Facebook del programma, se avete voglia di contribuire a dare la vostra siete liberi di farlo. Il profilo Twitter, eccoci qua, almeno un attimo. Simone scrive: il lavoro più rischioso è stato lavorare per il comune durante il censimento, ne ho viste di ogni. L'hashtag vi ricorda sempre Voi Siete Qui, mentre l'indirizzo nostro su Twitter è Voi Siete Qui R24. Domenico: è la cosa più difficile e la cosa più pericolosa è quella che faccio ora, il poliziotto. Luca invece, sempre su Twitter, è stato fare il corriere in motorino che porta le pizze, senza ombra di dubbio. E lo posso immaginare, ogni tanto ne vedi qualcuno, poveraccio, per terra queste pizze, me ne ricorderò almeno 4 negli ultimi 2 anni. Uno vicino a casa proprio, povero, un ragazzo, credo cileno. A Milano ci sono molti ragazzi sudamericani che portano le pizze. Vabbè, niente, abbiamo fatto così, un escurso sui ragazzi cileni che portano le pizze a Milano, anche chi se ne frega. Guidare il camion ogni notte, invece, mi scrive Stefano. Udine-Bologna, Bologna-Udine, con tutto ghiacciato. 349-238-6666. Quando si parla di pericolo, o perlomeno nella nostra, diciamo, fantasia contorta e ridotta, quando abbiamo parlato di rischi sul lavoro, ci è venuta immediatamente in mente una foto, che non è la foto di Gianni, è la foto di quegli 11 tizi che in bianco e nero mangiano seduti su una trave con sotto New York, sotto allo spalle New York, come se niente fosse, come se fossero seduti su un muretto. Quella fotografia lì ha una storia, ovviamente. Si chiama innanzitutto Lunch Atop a Skyscraper, che significa pranzo in cima ad un grattacielo. È una foto che è stata scattata da Charles Ebbets, ed è una foto del 1932. Se non ce l'avete presente, andate sul profilo Facebook del programma e la vedete. Ecco, la sua storia è questa qui. È il 29 settembre del 1932. 11 operai pranzano su una trave a 244 metri d'altezza. Sotto di loro le strade di una New York in crescita. Stanno lavorando alla costruzione del Rockefeller Center. L'America tenta di risollevarsi dalla Grande Depressione. Siamo in pieno New Deal di Roosevelt, neo eletto presidente degli Stati Uniti. Nel 1932, data dello scatto, la sicurezza sul mondo del lavoro è una materia pressoché sconosciuta. In questa foto, 11 operai mangiano e si riposano a 240 metri d'altezza, al 69esimo piano del grattacielo in costruzione, senza nessuna protezione, senza nessun aiuto. Quando fu scattata, forse in pochi si preoccuparono della sicurezza, forse anche il fotografo stesso non ci ha pensato, visto che per scattare questa fotografia non avrà utilizzato protezioni maggiori rispetto a quelle degli operai. Oggi come oggi questo scatto, dopo essere stato utilizzato per poster, magliette, tazze, sta riacquistando una nuova notorietà, una nuova valenza comunicativa. Sta diventando l'icona della memoria di chi ha perso la vita sul lavoro, sperando che quest'immagine di ieri possa servire da monito al mondo del lavoro di oggi. Una piccola curiosità su questa fotografia. Fino al 2003 la paternità di questo scatto non era al 100% certa. In molti casi, come firma di queste fotografie sui giornali americani, appariva sempre la scritta Photographer Unknown, fotografo sconosciuto. Solo nell'ottobre del 2003 gli esperti del Bateman Archive, un archivio di oltre 11 milioni di fotografie ora di proprietà della Corbis, hanno dissipato ogni dubbio in proposito al fatto che sono state scattate da Charles Abbott. Che a guardare questa fotografia oggi probabilmente non avrebbe senso, nel senso che oggi nessuno crederebbe che sia una foto vera, perché tutti penserebbero a Photoshop. E c'è qualcuno, come mi scrive Giorgio, che c'è il dubbio che sia falsa anche questa foto, perché dice osserva la prospettiva, ma come giustamente si diceva con Tiziano, anche le foto sulla Luna insomma hanno una prospettiva particolare. E poi mi piace pensare invece che sia vera. Certo che questi sono addirittura alcuni con le gambe giù, con le gambe a penzoloni, le mani coi guanti a mangiare da questo scatolo in cui immagino ci sia il pranzo. 349-238-6666. Sono Paolo. Nel 79 lavoravo come sommozzatore all'interno di una diga in Val d'Ossola. L'episodio in cui ho rischiato la pelle è stata durante la decompressione, che doveva poi continuare con ossigeno puro, ma dalla superficie mi hanno passato l'erogatore collegato al bombolone di ossigeno. Il bombolone era vuoto per un errore. Lì ragazzi, tiri e non c'è niente. Non deve essere facile. Ho visto una di quelle robe lì, di quelle guarda Paolino su di Max, no? Di gente che fa questi lavori pericolosi, credo che si chiami. Gente che sta per 2 settimane in una specie di camera di decompressione perché lavora a 150 metri di profondità. L'ha persa quella puntata, te la vai a ritrovare. È finita anche oggi. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, a partire da Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e a Margherita Hina, che anche se non c'è è come se ci fosse, ti prego, ritorna presto. Grazie soprattutto a Gianni, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Marco, vivo a Torino e la storia di domani è la mia e vi racconta l'odissea che ho vissuto per cercare di vedere l'agognata finale di Champions dell'Inter nel 2010. Questa è la mia storia e io sono qui.